Una buona sera da Max Macchia per 451 Frammenti Sonori, anche questa sera in compagnia del sottoscritto, come quasi ogni mercoledì, e appunto 451 Frammenti Sonori, musiche sperimentali più o meno tali, ma con sperimentali non vogliamo chiudere faccende che insomma sono anche legate e a discorsi che provengono da Wave o perché no, da certi mondi stranamente pop, collisioni strane appunto con anche linguaggi più così, più legati a musiche che si possono diffondere più facilmente magari anche radiofonicamente, oppure musiche strettamente sperimentali legate sia all'avanguardia storica che alle nuove avanguardie, e tutta quella genia di folli che da più o meno insomma età psichedeliche segnano le musiche più o meno giovanili, insomma poi il discorso generazionale, come dire, ci porterebbe anche a forti contraddizioni che questa sera comunque non affronteremo, ma che poi per tanti versi insomma attraversano anche 451 Frammenti Sonori. Questa sera non tratteremo musiche giovanili, non vi preoccupate, seppur sperimentali, oppure sì, anche perché no, ma che non hanno insomma un appeal sicuramente immediatamente tale. D'altronde heavy metal, questa è un po' la faccenda di 451 di questa sera. Heavy metal ovviamente insomma una sorta di storpiatura da heavy metal, quindi un concetto pesante, ma un concetto anche grave se vogliamo, un concetto che volutamente si fa anche scuro a volte, perché no, ma altre volte questa pesantezza appunto e questa gravità prende anche strane forme, magari tra suoni potenti e invece grandi divagazioni, perché no, anche spazializzazioni, nel senso insomma anche di cosmicheggiamenti, che questa sera, permettetemi insomma il termine, ci saranno per molti versi, e per altri poi si continuerà quella linea che abbiamo e che tante volte insomma percorriamo o percorso insomma più in generale, senza insomma parlare strettamente di linea, che forse segna un po' troppo il, appunto un percorso che invece è ben più largo, quelle etnicità, quel suono antropologico per certi versi, con cui tra l'altro stasera apriamo con Herbst Nein versus Zev. Zev non ha bisogno di grandi presentazioni, seppur tra gli industrial storici è uno dei meno conosciuti, sicuramente più legato a quelle sperimentazioni tribali, tribaloidi, quell'esoterismo anche, che non va mai comunque nell'elitario e nell'escludente, anzi un personaggio che addirittura abbiamo trattato in mezzo ai punk, più punk della Subterranean Record, ma che esce fuori dal grande progetto d'avanguardia di Glenn Branca, dove suonava le percussioni e poi ha fatto lavori vicini insomma al mondo di una wave sempre sperimentale, e come Zev invece senz'altro è stato più dentro quelle sperimentazioni industriali, ricordiamo un Berlin Atonal insieme a Psyche TV, ma ha tante sperimentazioni soprattutto sul ritmo, che nel decennio degli anni 80 fecero di Zev un punto di riferimento assolutamente imprescindibile per chi ama la sperimentazione sulla percussione. Negli anni 90 poi si diede anche a una musica drone, qua appunto sì, con un aspetto anche etnico, se con etnico appunto intendiamo comunque una faccenda che si apre veramente in maniera anche inedita verso antropologie sonore e verso anche invenzioni appunto di tali, quindi spostamenti anche delle musiche che qua vanno a impattare con Herbst Nein, gruppo più dedito al drone scuro, grave, pesante, appunto una sorta di heavy metal che però funziona decisamente bene con Zev, proprio in questa dialettica tra tribalità e tribalismi anche astratti dentro questo lavoro e per altri versi potenti, e suoni che dall'oscuro poi si fanno anche stranamente extraterrestri, quindi stranamente concettuali, stranamente mentali. Herbst Nein versus Zev dal loro True Bleak Landscape. Ci andiamo a prendere appunto per questo 451 Heavy Mental. Lavoro senz'altro suggestivo quello di Herbst Nein insieme a uno storico come Zev, un personaggio assolutamente poliedrico, abbiamo detto insomma all'inizio, anzi alla fine degli anni 70, dentro progettualità vicine alla no wave, ma quella dall'altra parte dell'oceano, quindi non quella newyorkese ma quella di San Francisco, legata appunto alla Subterranean e a progettualità che si muovevano dentro sperimentazioni Maidome e Herbst Nein, che invece elabora proprio un discorso anche originale, non originalissimo ma comunque senz'altro personale rispetto alle lunghe distese del drone, del dark ambient, quella che insomma è chiamata tale in questo senso, e comunque è più prende da certe ambientazioni legate alla dent ambient, ad esempio, che abbiamo trattato qualche mese fa appunto qua, 451 frammenti sonori, con quel tanto di risonanza appunto metallica che dialettizza perfettamente il discorso con Zev, se non perfettamente, quell'imperfezione comunque dà adito magari a possibili nuove trasformazioni da parte di Herbst Nein, quindi anche nei momenti forse più interlocutori si fanno interessanti quelle maglie che si possono aprire appunto per nuovi progetti, nuove dimensioni sonore appunto di Herbst Nein, e di dimensioni sonore che sembrerebbero molto lontane così, ma punto di vista molto superficiale, quello di Ekman, tecnoide, impazzito completamente per un acid portato alle estreme conseguenze, e con appunto una memoria tecno decisamente solida rispetto a un percorso che si sta facendo sempre più interessante rispetto ai vari EP che sta facendo uscire. Noi andiamo a prendere da Entropy, ed è un suono che veramente va verso l'entropia, una techno che con l'acid si attorciglia su se stessa, va sul rumore, e c'è un forte rimando anche a forte suggestioni quasi ambientali, e quasi un cosmo rotto, un cosmo portato appunto all'interno, entropizzato, che fa di questo piccolo gioiello del 2014. Ci andiamo appunto a trarre tra le varie insomma declinazioni tecnoidi, i tecno disastri insomma di questi anni, anche appunto quello di Ekman. Thank you. Un suono da tecno disastro, come dicevo prima, quello di Ekman, un suono liminare decisamente, non parliamo di terminale perché insomma sì, si tratta di entropie, ma di certo insomma il percorso è molto ancora lungo, quindi altro che terminale quello di Ekman, perlomeno insomma le potenzialità sono già espresse decisamente bene, ma l'aspettiamo appunto per un disco, se ancora insomma ha senso parlare di disco come long playing, quindi come lunga durata, ecco. E da Ekman, con un suono appunto liminare di confine, andiamo a trovare un personaggio italiano, Francesco Perissi, XO. Questa insomma la chiave, la ragione sociale di questo progetto, appunto legato al solo Francesco Perissi, che già era dedito a sperimentazioni tra metal e quei linguaggi vicino a Sanno, quindi a quelle dilatazioni che il metal ha portato insomma negli anni zero, come Cube, e poi appunto ha sviluppato un percorso assolutamente fuori da, ma ancora dentro per molti aspetti, al metal, fuori nel senso che quel fuori liminare di cui stavo accennando è legato alla battuta, la battuta che si fa tante volte panasonica, altre volte riprende da appunto altri disastri techno che sono tra le corde senz'altro di Francesco Perissi, e con un noise che così si fa tante volte anche molto evocativo nel ricordare momenti insomma di wave, ma anche momenti insomma che possono così forse ricordare certi Nine Inch Nails, certe faccende insomma legate a sempre forse un suono post metal che si andava a incrociare con l'industrial. E XO esce con questo De, con sigle che così vanno anche un po' come dire a distruggere per molti versi, o comunque a minimalizzare, ecco, in questo senso forse delle specie di entropie potremmo considerarle tali, chissà se è d'accordo anche lui. C13H16 Cino appunto è uno dei brani, e del brano che andiamo ad ascoltare appunto questa sera dentro 451, appunto dedicato all'heavy metal, e dentro l'heavy metal, quindi gravità sonore che non sono pesantezze fine a se stesse, speriamo insomma che non lo siano, ma di sicuro insomma, sono convinto che non lo pensate neanche voi, appunto troviamo anche questa nuovissima progettualità appunto di XO che ci andiamo appunto ad ascoltare. Beh, ci sono anche momenti, insomma, come appunto la chiosa di questo C13 H16 Cino da parte di XO dal suo disco Ondè, e che non trovate in formato fisico, comunque insomma cercatevelo tramite la rete, basta che insomma dentro i motori di ricerca i vari che ci sono mettete XO.ND e non vi faccio lo spelling, sennò insomma diventa tipo messaggio telefonico, quindi non mi sembra il caso, e appunto trovate anche momenti di così cattiveria sonora come questi alti che concludono questo pezzo, e anche chitarre che si fanno da tuonanti a decisamente anche melodiche dentro un suono che chiaramente insomma prende tanto dal metal, tanto da certa wave, come anche da un suono epico così cercato appunto attraverso verso il drone chitarristico. È anche una battuta che se sonoricamente insomma è piuttosto netta, appunto va a creare un bel, come dire, una bella piattaforma appunto per partire verso il drum in space, come lo chiama appunto Francesco Perissi con il suo XO, questo appunto punto di fuga e questa definizione sonora che per tanti aspetti sta. E ci sta, e ci sta anche bene. E Concrete Fans hanno una concezione che per alcuni versi potrebbe essere vicino a questa, ma appunto ce l'andiamo a sentire proprio anche come termine di paragone, non solo se vogliamo farlo insomma dentro questo suono che forse è grave, concettuale, ma poi in effetti poi per tanti aspetti è anche molto diretto. dentro il mondo della Pan Record, ovviamente con Grand Fans non sono altro che uno storico della techno, con la techno con la T rovinata, forse con la techno disastro che stiamo accennando per tanti versi questa sera, appunto dentro questo 451 dedicato così in maniera astratta all'heavy metal, un suono grave ma non tanto da diventare impossibile, anzi di possibilità ne crea anche tante. Concrete Fans sono appunto Regis e Russell Oswell, Regis proveniente insomma dalla techno più furiosa ma anche più se vogliamo noise inglese, e Russell Oswell che ha collaborato con personaggi come Masami Akita, che da un bel po' di anni fa del noise un percorso non attinte insomma univoche ma anzi variopinte, perché insomma Russell Oswell riesce veramente a variare in maniera molto interessante dentro il linguaggio del noise, che per tanti versi insomma potrebbe sembrare come dire monolitico, è tutt'altro, insomma spesso lo ripetiamo da queste parti che lavorare sul noise vuol dire lavorare sul molto fine. E poi vabbè, ci sono anche come dire i pestoni, però Russell Oswell non appartiene di certo a quell'ambito, e quando insomma pesta lo fa sempre con una concettualità, con un disegno insomma piuttosto anche complesso nel suo svolgersi, nel suo evolversi in maniera sonora, come d'altronde questo new release di Concrete Fans insieme a Regis. E abbiamo poi ascoltato Jarmoff, che proviene dalla Grecia, anche lui stampa per la Pan, sia artista visuale che audio collagista, si sente un suono che sembra una discarica folle di accostamenti tra elettroniche andate a male e momenti così che ricordano metallurgie varie, noise che attraversa tutto il disco, tra l'altro decisamente bello, Commercial Moth da parte di Jarmoff, che portano anche dentro strani percorsi vicini quasi a mondi jazzistici, jazz noise, forse però più sul versante snuff jazz che su un versante insomma di appropriazione diciamo più legata a quello che è la raffinatezza appunto del mondo anche sperimentale del jazz, più insomma è qualcosa vicino a un Dada jazz, quello di Jarmoff, insieme appunto a tutto quello che dicevo prima, è anche appunto un suono tecno disastrato, e tra suoni tecno disastrati, tra friccherie varie che ci sono dentro questo percorso piuttosto allucinate di Black Goat of the Woods di Black Mountain Transmitter, ci sono anche così vaghezze di tanto tipo, si potrebbe parlare di psichedelie legate a un noise infinito e indefinito, tanta gravità dentro un suono che comunque diventa anche spesso allucinante e porta quindi anche su lidi decisamente lontani, quelli di Black Mountain Transmitter, anche un immaginario così scuro che va a prendere così da anche un mondo fumettistico, se vogliamo, molte delle faccende insomma che trattano black metal, il metal drone e anche certe psichedelie vanno ora insomma a impattare anche con un certo fumettismo immaginario che appunto prende tanto da graphic novel così allucinate e così fantastiche, una fantascienza assolutamente distopica e visuale, oltre che appunto audio, quella di Black Mountain Transmitter.